Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Microfono aperto da qui alle 15, anche se anche in quest'ora dedicata allo sport e al calcio ci sarà massima attenzione a tutti quelli che sono gli aggiornamenti che arrivano dalle zone terremotate. Intanto l'appello lanciato da Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, dove ancora si scava, lo avete sentito, per cercare di rendere meno spaventoso il bilancio di vite umane spezzate dal terremoto. Sergio Pirozzi, che oltre che essere sindaco di Amatrice è anche uomo di sport, allenatore del Trastevere, squadra di Serie D. Pirozzi: no, ma non è tanto metafora, io il mio lavoro è il tecnico, per cui il tecnico, chi fa il mister, sa che è bravo se ha dietro una squadra. La squadra rende se il mister è bravo. Oggi il mister c'è, però c'ha bisogno della sua squadra. La sua squadra è la sua comunità e è anche il cuore dell'Italia che pulsa. Allora, che se c'è questo, diciamo, noi ce la facciamo. Anche altre persone vogliono dare un sostegno, anche se un euro, e sarebbe un segnale straordinario, guardi, che ci darebbe la forza, perché qui è un paese che non c'è più, come ho detto alle 4:15 dell'altra sera. Io non dormo da 32 ore, però ancora ho la forza di parlare con voi. Grinta, perché sono un capoccione. Questo Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, poche ore fa. Intanto il calcio e lo sport si stanno mobilitando. Questa mattina il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha annunciato che parte dell'incasso di Napoli-Milan sarà devoluto alle vittime del terremoto. Lo stesso farà il Frosinone Calcio con una raccolta di beni di prima necessità. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha messo all'asta una cena con se stesso, due posti nel suo skybox allo Juventus Stadium per la prima di Champions. La Juventus destinerà l'incasso del suo museo di domenica 28 agosto interamente alle vittime del terremoto. Poi insomma, ci sono tante altre iniziative che vi cercheremo di raccontare in questa ora. 800 24 00 24, vi aspetto per capire anche da voi, da sportivi, se e come vi mobiliterete nei prossimi giorni per fare qualcosa di concreto per le vittime del terremoto, oppure anche perché parleremo dell'attualità alle 18. Oggi ci sono i sorteggi di Champions League, Juventus e Napoli conosceranno le avversarie dei prossimi mesi per i gironi per l'Europa che conta. Se volete raccontarci le vostre sensazioni, 800 24 00 24. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Dopo le lacrime di ieri, insomma, il mondo dello sport, il mondo del calcio, piano piano si stanno anche mettendo in moto. Sì, ma io non avevo dubbi. Credo che poi in queste circostanze qui vediamo, viene fuori sempre il meglio e il peggio, no? Viene fuori qualche commento stonato, qualche polemica proprio becera sui social, ma che poi secondo me non corrisponde al paese reale. Il paese reale, chiamiamolo così, mi sembra che abbia un solo pensiero in queste ore, che è il pensiero di noi tutti, e ognuno secondo quello che può, mi pare che stia dando un contributo. Poi chiaramente ci sono dei casi più eclatanti, che sono le persone che fanno volontariato, che quindi hanno deciso di dedicare un pezzo della propria vita in maniera continua a questo genere di bisogno degli altri, e questi sono tra virgolette i più bravi di tutti, nel senso che sono quelli che hanno fatto la scelta di vita in questa direzione, e in questi giorni li vediamo in primissima linea. Però credo che tantissime altre persone, magari privatamente, stiano dando un contributo fattivo, reale, e anche un contributo di pensiero, perché poi alla fine il paese è fatto certamente dalle cose materiali, dalla ricostruzione, dal dare una mano, dal darsi da fare, ma anche da un clima, no? da una partecipazione alle gioie o ai dolori degli altri, che è quasi altrettanto importante. Quindi questo è quello che mi sembra che ci sia. Poi hai detto bene, giustamente, il mutato della Juve, il Verona che devolve un euro, l'iniziativa dei ristoratori sulla Matriciana, gli ultra della Roma, il 3 fanno questa cosa a margine di Roma, San Lorenzo e chissà quanti altri gruppi di tifosi privati, di curve, di tribune. Quindi insomma, da una cosa drammatica, però alla fine ci sono dei piccoli segni belli, no? Sì, di partecipazione. L'Ellas donerà un euro per ogni spettatore, ce lo segnala anche Cristian da Verona, 349 238 6666. Insomma, sono tante che si stanno muovendo. Vogliamo raccontare una storia questo pomeriggio, uno dei tanti gesti che nei prossimi giorni il mondo dello sport, il mondo del calcio farà in maniera concreta. Ripetiamo, noi invitiamo, al di là del minuto di silenzio, al di là della fascia nera al braccio che accompagnerà le partite di tutte le nazionali, perché così ha deciso la Federcalcio, invitiamo comunque tutti a segnalarci gli atti concreti. Io saluto Massimo Secondo, presidente della Provercelli, squadra di Serie B, che domenica incrocerà l'Ascoli e quindi sarà quantomeno vicina, almeno spiritualmente, alle zone colpite dal terremoto. Secondo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Ci racconta cosa avete deciso di fare? Ma guardi, noi come da tradizione avevamo la presentazione della squadra ieri pomeriggio, presentazione che facciamo sempre nella settimana precedente l'inizio del campionato. E chiaramente, come dire, una festa un po' per i nostri tifosi che incontrano per la prima volta i giocatori nuovi, eccetera. E ieri c'era tutto meno che la voglia di far festa, l'abbiamo confermata perché volevamo avere vicino i nostri tifosi, l'abbiamo un pochino ridotta, l'abbiamo fatta un po' sottotono perché non c'era francamente nessuna voglia di festeggiare, però abbiamo pensato subito, visto che proprio per combinazione del calendario sabato incontriamo l'Ascoli, abbiamo subito pensato quale poteva essere il gesto di solidarietà da fare, quindi la scelta è stata di devolvere una parte dell'incasso e soprattutto io ho fatto un appello alla mia città. La mia città è una città di gente estremamente generosa e concreta. Quando ci sono circostanze come questa, allora ho detto: vorrei lo stadio pieno come in una partita di cartello, come abbiamo avuto l'anno scorso all'ultima, che per noi valeva la salvezza con il Cagliari, eccetera. Lo stadio pieno per poter dare una mano ancora più importante a queste persone che hanno perso tutto, hanno perso la casa e purtroppo molti, e lo vediamo di ora in ora, hanno perso i loro cari, che è la cosa più importante. Quindi insomma una parte dell'incasso di domenica andrà sul conto corrente della Croce Rossa per aiutare i terremotati, e sono sicuro che Vercelli risponderà alla grande con molta gente allo stadio per poter fare il massimo che possiamo fare da qua, insomma, da lontano. Quanta gente sperate di portare allo stadio? Ma noi, il nostro stadio tiene 5.500 persone, speriamo di poter fare l'esaurito, comunque di poter fare insomma un incasso importante. È vero che è ancora un periodo di ferie in cui molti sono via, ma sono sicuro che Vercelli darà una risposta importante. Pier. Complimenti per la sensibilità, ma insomma ripeto, io credo che siamo tutti parte di una collettività. La cosa più importante è veramente il segnale simbolico, no? È il fatto di fare delle cose, perché fare delle cose significa partecipare emotivamente al dolore di queste persone che e anche se uno non è direttamente toccato, nel senso che non ha amici o parenti che sono stati lì, credo che deve sentire questo dramma come il dramma suo personale e di tutti, quindi complimenti, credo che ci sarà una moltiplicazione delle iniziative, credo che sia questa anche un'opportunità per renderci conto che ci sono spesso delle etichette che si creano, no? Per esempio, faccio per dire, ieri abbiamo scoperto che ci sono stati tanti extracomunitari in strutture di soggiorno che hanno chiesto o hanno donato dei soldi o hanno chiesto di andare a dare una mano ai soccorsi, e questo magari per certe persone può essere utile per togliersi alcuni pregiudizi. Il discorso sugli ultra che ti facevo prima, al netto che poi quando ci sono cose di violenza fuori dagli stadi siamo i primi a stigmatizzarle, ma quando i tifosi invece utilizzano la propria aggregazione per fare delle cose molto sane è giusto dare ampia visibilità. Quindi secondo me deve essere un'occasione per toglierci un po' di etichette che spesso ci facciamo su determinati gruppi umani in un senso o nell'altro, invece per partecipare a quello che è un dramma di tutti. Presidente Secondo, avete mai preso in considerazione cosa che viene chiesta, scritta, arrivano anche messaggi, arrivavano ieri, arrivano anche oggi, l'idea che lo sport e il calcio si debbano fermare in questo momento? Ma guardi, io ieri ho chiamato il presidente Abodi mettendo nelle sue mani la nostra disponibilità, nel senso che io ho detto che ovviamente, dato che noi abbiamo anche questa combinazione di incontrare proprio l'Ascoli, insomma, che dopo quella di Rieti è la provincia più colpita da questo terremoto, ho detto che noi eravamo disponibili al 100% sia a fermarci, a rinviare, insomma a fare quello che la Lega e la Federcalcio ritenevano più utile nell'interesse delle persone. Si è deciso di andare avanti e quindi noi abbiamo fatto questa scelta. Vi ringrazio dei complimenti, ma penso che non saremo, anzi ho visto, forse siamo stati tra i primi per magari la concomitanza del calendario, ma credo che molte iniziative ci saranno, perché credo che con le immagini che arrivano da quei posti nessuno possa non sentirsi toccato direttamente e personalmente da una tragedia di queste proporzioni. Sì, ma anche per questo ci piace raccontare. Abbiamo preso un esempio, ripetiamo, sono tante le iniziative che in queste ore vengono prese. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona trasmissione a tutti e ai vostri ascoltatori. Arrivederci. Grazie a Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli. 800 24 00 24. Filippo. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a te. Io volevo solo segnalare, visto, allacciandomi al discorso di prima, di toglierci delle etichette da addosso, che anche nella Sverona, che di solito non è che sia molto ben vista dagli organi di informazione, tramite il suo precedente sul sito ufficiale, dichiara di donare un euro per ogni spettatore pagante e abbonato che sabato sera saranno presenti alla partita con il Latina. L'abbiamo detto, ma io credo non sia nemmeno questione di avere buona o cattiva stampa, perché il pubblico di Verona ha buona stampa quando dà il meglio di sé, ha cattiva stampa e ha avuto cattiva stampa quando insomma c'è stato da raccontare qualcosa di brutto. Però è bello ed è giusto che vengano raccontati questi esempi, che vengano raccontate queste storie in queste ore che, ripetiamo, sono ancora ore. E lo faremo anche noi, perché rimane aperto anche il canale di aggiornamento su tutti i fatti del terremoto, e per cercare di raccontare queste che sono ancora le ore della ricerca di chi è sotto le macerie, nella speranza di riuscire a limitare il bilancio dei morti. Gianluca. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Ecco, portavo questa informazione anche l'Hockey Ghiaccio Milano, l'Hockey Club Milano Rossoblu, nella prima amichevole che farà a settembre contro l'Asiago, devolverà tutto l'introito ai terremotati del centro Italia, e in più gli ultra stanno organizzandosi per una raccolta di fondi e di materie prime, insomma di generi alimentari diversi, che possono essere poi inviati verso queste popolazioni più sfortunate. Ecco, era solo questo contributo che volevo portare da parte dell'Hockey Milano Rossoblu. Grazie Gianluca, siamo qui a raccontarle. 800 24 00 24, c'è il traffico importante in queste ore, ci fermiamo, poi torniamo e parliamo di un campionato che parte in questo fine settimana, è il campionato di Serie B, abbiamo sentito prima di Pro Vercelli Ascoli, faremo un po' il punto col presidente Abodi. Tutti convocati. Convocati. Siamo aperti a tutti i messaggi, anche quelli critici, come un amico che ha scritto al 349-238-6666: se non devolvi tutto l'incasso ma solo una parte, fai business sui morti e sulla sofferenza. Concordate? La risposta è no, non concordiamo, ognuno fa ciò che si sente e ciò che pensa sia giusto fare. L'importante è far sentire che esiste una mobilitazione. 800 24 00 24. Poi oggi ci sono alle 18 anche i sorteggi dei gironi di Champions League, e quindi vi aspetto, poi capiremo anche quali possono essere gli scenari, vi aspetto anche con le vostre sensazioni. Pierluigi Pardo, saluto Andrea Abodi, presidente della Lega B. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Serie B che parte in questo fine settimana, lei tra l'altro nelle ore del terremoto era ad Ascoli, e quindi insomma con una sensibilità particolare per quello che è successo. Sì, era un appuntamento programmato, l'abbiamo mantenuto nonostante purtroppo la tragedia, di cui siamo stati anche in piccolissima parte partecipi, perché eravamo a colazione, c'è stata una scossa non indifferente, con un effetto che posso che mi ha fatto capire quanto grande sia stato anche quello che è successo in questi giorni. Sono, a parte i 250 morti, quelli che saranno, tanti bambini, cioè c'è una condizione di disagio assoluto, di malessere proprio psicologico. Noi anche se non siamo stati colpiti direttamente, è come se fossimo lì, no? È come se partecipassimo con tutti i sentimenti, con tutta la sensibilità umana, ed è quella che ho riscontrato tra l'altro in tutte le società, perché da questa mattina siamo ininterrottamente al telefono con tutte e 22 società per cercare di coordinarci, di mobilitarci. Poi, come sentivo appunto dalle sue parole, ci può essere chi è favorevole, chi è contrario. Io credo che la cosa importante sia una manifestazione comunque spontanea, sincera, profonda. Le dimensioni delle disponibilità poi devono essere lasciate un po' anche al libero arbitrio, diciamo. Sì, e anche alla sensibilità, insomma, di ciascuno e di ciascuna, di ciascuna Giovanni, società. Sì. Di fronte a una roba di questo tipo, il limite non c'è. Cioè, se tu devolvi un euro, ti dicono che è poco. Se devolvi l'incasso di una partita, ti possono dire perché non devolvi l'incasso di un campionato. Cioè, voglio dire, il limite non c'è. No, nel senso, di fronte a una roba così grande. Sicuramente sì, per noi no. Come ho detto, spontanea, sincera e immediata è stata quella di dire: noi ci siamo, comunque, certo, in tutte le forme. E tra l'altro io credo che la cosa importante non sia una risposta anche emotiva di oggi, ma sarà l'attenzione e la presenza anche nei giorni e nelle settimane che verranno. Ed è questo l'impegno vero che noi prendiamo. Noi oggi possiamo garantire la promozione al 45500 della Protezione Civile, lo faremo su tutti i campi, su tutti e 22 nelle prime due giornate. Possiamo garantire il 10% di tutti gli incassi delle 22 partite della prima e della seconda giornata. Possiamo garantire tutta la promozione possibile alle attività comunque di assistenza coordinate con chi è chiamato a coordinarle, per evitare poi uno spontaneismo che non aiuta dal punto di vista organizzativo. Ma possiamo anche garantire che nei prossimi mesi ci saremo quando le cose si assesteranno, in qualche misura, come è successo già in passato con la Caritas, ci saremo per raccogliere finanziamenti per ricostruire un asilo, una scuola, qualcosa comunque di rappresentativo, di significativo, che riguarderà soprattutto i bambini, che sono l'elemento più debole, quello che più è entrato nel cuore di tutti noi in queste 24-36 ore, perché sono i soggetti più colpiti dal punto di vista proprio del significato, oltre che della vita e del sacrificio. E questo credo che debba essere sottolineato, e così come lo facciamo noi della Lega B, lo faranno, sono convinto, tutte le altre componenti calcistiche e sportive, perché questo è il nostro modo di rispondere. Sarebbe bello che una piccola parte di questa generosità, di questa sensibilità, di questa solidarietà rimanesse in vita comunque a prescindere dai fatti dolorosi. Aiuterebbe sicuramente ad affrontare con una gerarchia diversa i problemi quotidiani e anche avere dei comportamenti nei giorni normali più equilibrati rispetto agli squilibri che spesso si manifestano nel nostro mondo. E con questo credo rispondiamo anche a tanti che stanno scrivendo, insomma, facendo la classifica della solidarietà. Abbiamo un aggiornamento dalla redazione, proprio un aggiornamento che riguarda i fatti del terremoto in Centro Italia. Marta Cagnola. Sì Giovanni, allora intanto l'ultima notizia: i vigili del fuoco stanno estraendo dalle macerie di Arquata la salma di uno dei due dispersi accertati nel paese, quindi iniziamo con una brutta notizia e poi ancora gli aggiornamenti che riguardano i numeri delle vittime. Quelli accertati nel bilancio aggiornato dal Dipartimento della Protezione Civile sono 241, non 247 come comunicato precedentemente. Il bilancio però, lo sappiamo, ancora provvisorio. L'ultimo aggiornamento della Protezione Civile sul numero dei feriti è di 270. I vigili del fuoco hanno estratto vive dalle macerie del sisma 215 persone. Ma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, poco fa ha tenuto una conferenza stampa, ha detto: temo che oggi le vittime aumenteranno e non di poco. In particolare il sisma ha colpito nel Lazio i centri di Amatrice e Accumoli. Il presidente della Regione Lazio ha anche parlato dei fondi stanziati. Sentiamolo al microfono di Chiara Piselli. Abbiamo stanziato innanzitutto 5 milioni di euro straordinari per l'emergenza, per fare in modo che le strutture della protezione civile o per quanto riguarda la mobilità dell'Astral siano in grado di fare tutto ciò che è utile e importante fare senza nessun tipo di problema. Ovviamente nelle prossime ore guardando l'evolversi della situazione, ritorneremo anche da questo punto di vista a verificare se sono necessari, come saranno necessari ulteriori stanziamenti. Per quanto riguarda il 1.300.000 euro? Oltre a questi 5 milioni, il Consiglio regionale del Lazio ha stanziato 1.300.000 euro da destinare direttamente ai due comuni come primo, anche in questo caso, segnale di presenza, di vicinanza e di contributo dell'istituzione regionale. E il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha detto una cosa molto importante, ha detto: facendo mia un'istanza della protezione civile, mi sento di dire che non servono in questo momento raccolte di abiti o cibo, la protezione civile ha un suo meccanismo di approvvigionamento strutturato, servono invece fondi e raccolta di sangue. Per quanto riguarda la raccolta fondi, probabilmente ne avete parlato, il Calcio Napoli devolverà parte dell'incasso della partita di campionato Napoli-Milan, lo ha reso noto Aurelio De Laurentiis con un tweet. Tutti gli incassi dei musei statali di domenica saranno destinati ai territori terremotati, ha dichiarato Daria Franceschini, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. E invece di qualche istante fa la notizia per cui è allo studio la possibilità di destinare il jackpot del Super Enalotto alla popolazione colpita dal sisma, ma il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha detto che per il momento è difficile studiare come difficile che si possa intervenire sul jackpot attuale, ma sicuramente una situazione allo studio, perché in questo momento è importante raccogliere fondi. Grazie Giovanni. Grazie Marta Cagnola. Quindi questi gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda del terremoto. Io torno invece con Pierluigi Parto e con il presidente dell'AGB Andrea Bodi, col quale voglio anche fare due chiacchiere sulla Serie B che parte in questo fine settimana, comincia domani sera con la prima partita che è quella tra Spezia e Salernitana. Che campionato di B si aspetta, presidente? Intanto partiremo comunque con il lutto al braccio tutti, in tutte le partite, e comunque con un minuto di silenzio per ricordare ancora questa tragedia. Dopodiché ancora per un po' lo spirito non è quello di dire finalmente si gioca, perché per qualche tempo ancora questo spirito non mi viene fuori, devo dire la verità. Sarà un campionato comunque avvincente, perché ci sono le condizioni tecniche, perché siamo comunque cresciuti in queste ultime stagioni, ci siamo sempre consolidati. Abbiamo mantenuto sempre le promesse, anche se qualcuno ha mancato a queste promesse, perché con i comportamenti non sempre si è corretti come si vorrebbe e come si dovrebbe, e quindi manterremo alta l'attenzione, la vigilanza, perché non ci siano cadute di stile, non ci siano cadute nei comportamenti sportivi. Campionato incerto, nonostante la vigilia possa immaginare delle favorite, anche perché recuperate due delle neopromosse dell'anno scorso, Carpi e Frosinone. Sì, ma poi questo campionato ha insegnato a tutti noi che le gerarchie in parte le rispetta, ma in parte le tradisce, diciamo, e quindi tutto sommato le smentisce. Quindi siamo convinti che, così come è successo due mesi fa nell'ultima giornata di campionato, su 11 partite 9 davano delle risposte definitive per degli obiettivi importanti della stagione. Questo penso che sia uno degli ingredienti importanti che ha fatto della Serie B in questi anni, e lo farà ancora di più nella stagione che sta per iniziare, un campionato avvincente, all'altezza con gli altri campionati di seconda divisione europei. E questo è il nostro obiettivo, non soltanto dei numeri economici, ma anche dei numeri di consenso, le presenze di pubblico, i giovani che vengono convocati per l'Under 21, l'Under 20, l'Under 19, il minutaggio dei giovani, insomma, chi vuole vedere il futuro del calcio italiano è più facile che lo veda nel nostro campionato che in altri campionati, ed è in parte un piacere poter essere considerati la fabbrica del futuro. Un minuto prima di lasciarla, poi c'è già Marco da Padova, 800 24 00 24, ci dice come va a finire la questione del Pisa, che ancora in queste ore non sa se cambierà proprietà, non sa se giocherà Terni, non sa chi l'allena, non sa se esiste una o due rose. Questa è esiste una rosa soltanto, perché il resto è fantasia, per certi versi anche poco consapevole, perché basterebbe conoscere le regole per capire che non ci può essere una squadra fantasma di sudamericani, perché da noi non possono essere tesserati extracomunitari che vengono da fuori dal nostro continente, e poi c'è un tesseramento che ha delle tempistiche, quindi stiamo parlando di nulla. Dispiace che venga data pubblicità ad una situazione che non esiste. Mentre esiste purtroppo una situazione critica a Pisa che si sta risolvendo in questi minuti, mi sembra ci siano ormai tutte le condizioni per arrivare ad una soluzione del problema, faticosamente e anche forse un po' troppo lunghi nel tempo, perché questo non è consentito a 48 ore dall'inizio del campionato, ed è una considerazione che faccio perché non bisogna nascondere la polvere sotto il tappeto, quindi saper affrontare anche le situazioni critiche. Abbiamo lavorato perché nel rispetto di tutto e di tutti si arrivasse a una soluzione. Mi auguro che tra pochi minuti questa soluzione possa essere annunciata, sinceramente, perché sarebbe il modo migliore per da un lato iniziare il campionato e dall'altro anche rispettare un po' la situazione, lo stato d'animo generale. Vorremmo non concentrarci su problemi di questa natura, vorremmo vederli risolti, sì, anche sull'onda del buon senso. Sì, sì, e soprattutto riuscire a partire con qualche certezza che non sempre in passato c'è stata. Pier, abbiamo un minuto, poi salutiamo il presidente e c'è la borsa. Ma no, io gli faccio un grande in bocca al lupo, quello che dice è vero che la Serie B è un campionato di offense, perché è un campionato con delle gerarchie che non sono prevedibili, penso al Livorno l'anno scorso, per fare un nome, è un campionato nel quale c'è un livellamento dal punto di vista economico abbastanza generale che lo rende certamente incerto e avvincente. Poi è un campionato che ha recepito, secondo me, prima della Serie A tutta una serie di aspetti che possono essere utili per la sua diffusione, tra cui il fatto di giocare appunto nel periodo natalizio, una cosa che abbiamo sottolineato che secondo me va incontro alle esigenze del grande pubblico, e quindi insomma penso che ci divertiremo, sono sicuro che ci divertiremo. E poi oggi che abbiamo un CT che ha detto che in 2 anni vuole fare una nazionale di 23 anni, 25 anni, io credo che qualche visita sui campi della Serie B la faranno. Ma sicuramente. E invece volevo dire una cosa proprio volante, in questi 30 secondi, che tra le varie forme di sensibilità che ci sono state da parte del mondo dello sport c'è anche il fatto che la storica inaugurazione che doveva esserci, presentazione della Ryder Cup del 2022 di golf, che era prevista a Courmayeur, è stata per ovvi motivi di opportunità spostata alla prossima primavera. C'è tempo fino al 2022, la cornice molto suggestiva con questo lancio simbolico della prima pallina da golf verso questo che è un grandissimo evento al mondo, in Italia lo diventerà sicuramente nei prossimi anni, e è stata giustamente rinviata per ovvi motivi di opportunità. Grazie Piera, domani. Ciao. Grazie anche al presidente Abodi. Grazie a voi sempre per la disponibilità e per lo spazio che ci dedicate. Grazie Presidente. 800 24 00 24, vi aspetto dopo la borsa, parliamo un po' anche dei sorteggi. Oggi alle 18 Monte Carlo, Juventus e Napoli conoscono le avversarie in Champions League. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Matri è un giocatore che abbiamo voluto e si sta mettendo nelle condizioni migliori, potrebbe essere uno di quelli che può partire dall'inizio, anche se deciderò come sempre stanotte. Sicuramente Lecce ha più esperienza, ma Lirore è un giocatore che abbiamo anche lui voluto fortemente, è un ragazzo del 97 molto interessante, sta lavorando in determinata maniera. Questi ragazzi prima di tutto devono lavorare un pochino sui meccanismi nostri difensivi, però per il resto devo dire che sono molto contento per loro. Domani ci potrebbe essere l'occasione per potersi mettere in mostra. Questo è Eusebio Di Francesco. Questa sera ore 20:30 a Sassuolo si gioca l'ingresso nei gironi di Europa League a Belgrado, al Maracanã, contro la Stella Rossa. Si parte dal 3-0 dell'andata e sarebbe davvero importante anche per il sistema Italia, per il ranking, per tutti gli altri, che il Sassuolo riuscisse nell'impresa di entrare nei gironi di Europa League. 800 24 00 24. Saluto Vittorio Reggia. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao a tutti voi. Oggi è anche giornata, in mezzo alle tante notizie che continuiamo ad aggiornarvi sul terremoto, è anche giornata di sorteggi di Champions League. Ore 18, Juventus e Napoli conoscono le avversarie. Io credo si debba arrivare a questo sorteggio con grandissima fiducia, sia per la Juventus che per il Napoli. Non so qual è la tua sensazione. La mia sensazione è che per la Juventus sia doveroso arrivare a questo sorteggio con fiducia, perché ha impostato insomma una stagione, una campagna acquisti sull'obiettivo di riconquistare finalmente la Champions League, per cui io non penso che debba rappresentare un ostacolo insormontabile il sorteggio di oggi, anche se una mano nemica potrebbe accoppiarla ad esempio all'Atletico Madrid e al Tottenham, però io penso che una squadra che ha giustamente ambizioni di vittoria finale non può fermarsi di fronte al primo sorteggio. Il Napoli ha la fortuna di essere stato collocato in seconda fascia, quindi può limitare i danni, ma io penso che anche il Napoli abbia una buona possibilità di superare questo turno. Insomma, per una volta io consiglio di guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Ma tu condividi l'opinione di chi mette la Juventus tra le quattro squadre più forti, tra le quattro favorite di questa Champions League? Io allargherei tra le sei favorite. Sicuramente sì, soprattutto se dovesse andare in porto proprio oggi l'acquisto di Matuidi, che insomma consolida un centrocampo che ha perso tanta roba con Pogba. Io penso che a fronte del mercato che è stato fatto e del punto di partenza, insomma, non dimentichiamoci che la Juventus è una squadra forte, lo era anche l'anno scorso. Io penso che oggettivamente la Juventus, sfruttando anche l'assenza di grandi squadre dalla Champions League, tipo il Manchester United, abbia il dovere morale a fronte del mercato che è stato condotto di provare a vincere, a rivincere la Champions League. Forse mai come quest'anno ha la possibilità di vincerla, tenuto conto, ripeto, che mancherà il Chelsea, mancherà il Manchester United, insomma, la possibilità di vincere c'è. Sì, Matuidi è il profilo giusto per dare qualità, profondità, solidità al centrocampo che in tutta la rosa di Allegri, inutile girarci intorno ragionando in prospettiva europea, è certamente il reparto che semmai lascia qualche dubbio. Io guarda, ho definito Matuidi la migliore delle soluzioni possibili, non è il top della gamma, ma in questo momento credo con che cosa offre il panorama nazionale e internazionale, io credo che probabilmente Matuidi sia la soluzione migliore. Insomma, l'abbiamo anche ammirato all'Europeo, è un giocatore che ha un certo spessore. Io credo che più di tutti gli altri papabili, dei nomi che vengono fatti in questo momento, più di tutti sia lui il candidato. Mi stupisce anche come alla stessa maniera il PSG lo possa vendere, anche perché non lo venderebbe a una cifra esorbitante, per cui credo che se la Juventus riuscirà a portare insomma a conclusione questo affare sia la migliore delle soluzioni possibili. Sì, ci sono logiche di mercato che a volte sfuggono, personalmente a me sfugge anche perché il Napoli voglia liberarsi di Gabbiadini a tutti i costi, si sta trattando lo scambio con Kalinic, con Conguaglio. Io ad esempio ritengo che Gabbiadini non necessariamente sia inferiore a Kalinic, ma evidentemente Sarri la pensa diversamente. Sai cos'è? Io credo che ogni tanto d'estate ci siano delle pruderie di mercato che portano a volte a condurre degli affari, a portare avanti delle trattative che in effetti non hanno logica. Poi io faccio il giornalista, ci sono dei direttori sportivi, degli agenti, dei presidenti, per cui ne sanno sicuramente più di me. Ci sono degli affari che mi sfuggono, uno di questi è appunto la cessione di Gabbiadini, che grazie a Dio è un italiano. Quando è stato impegnato l'anno scorso, non dimentichiamoci che era soffocato da un certo signor Higuain, ha sempre fatto bene, è uno che la butta dentro, non vedo perché, però ti ripeto, io non sono né l'allenatore del Napoli né quello della Fiorentina, è una logica che mi sfugge. Io voto Gabbiadini tutta la vita. Sì, Gabbiadini che ha segnato, quando gli è stata data la possibilità ha segnato, anche Kalinic ha segnato, però ricordo ad esempio di Kalinic che dei 16 gol fatti l'anno scorso, da gennaio in poi ne ha fatti soltanto 2 ed è andato a fondo poi insieme alla Fiorentina con tutte le difficoltà della Fiorentina. Ti rubo ancora un minuto, direttore, per chiederti due giudizi secchi. Il primo, se ti piace l'idea del ritorno di Jovetic alla Fiorentina. E il secondo, se Pasalic, come scrive oggi qualche giornale, è l'ennesimo scarto per il Milan. Guarda, parto da Pasalic. Io, oggettivamente, una squadra che vuole rilanciarsi e deve rilanciarsi come il Milan, affidarsi a Pasalic per me è un po', insomma, giocare a mosca cieca. Io non so che cosa possa dare in più questo giocatore, perlomeno nella prospettiva e nelle ambizioni legittime del Milan. Su Jovetic ti dico, forse Firenze può essere un'altra volta la sua terra promessa, e parlo ragionando da Jovetic. Ragionando da Fiorentina, viste le ultime stagioni di Jovetic, qualche perplessità ce l'avrei. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie Vittorio Reggia. Andiamo dalla nostra Betta Fiorito, però, perché c'è un aggiornamento dell'ultima ora dalle zone del terremoto. Sì, appunto vi volevo dire che qui ad Amatrice pochissimi minuti fa c'è stata una grande scossa di terremoto, un'ulteriore scossa, l'abbiamo avvertita tutti, la terra ha tremato di nuovo, ci sono nuovi crolli e la situazione quindi è abbastanza di tensione e sembrava proprio che la terra tremasse sotto i piedi e parlando con la protezione civile ci ha detto anche probabilmente la scossa è stata proprio qua sotto e anche molto in superficie, quindi come vediamo il sisma ancora non si placa, questa è stata una scossa veramente forte, ora chiaramente bisognerà sentire l'intensità ma ampiamente avvertita da tutti quanti noi. Grazie Betta Fiorito, da Amatrice Marta Cagnola per altri aggiornamenti. Beh, diciamo che questo aggiornamento anche l'abbiamo sentito dalla voce di Elisabetta Fiorito, una scossa davvero forte, abbiamo sentito la preoccupazione nella sua voce, ecco, credo che dica più di tante parole. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, poco fa ha parlato a Sky TG24 e purtroppo ha detto che il terremoto in Lazio e Marche di ieri potrebbe avere in termini di vittime dimensioni peggiori di quello dell'Aquila. Il terremoto dell'Aquila avvenuto il 6 aprile 2009 fece 309 morti, ricordiamo, in una città in proporzione molto molto più grande. Finora il bilancio ufficiale non definitivo del sisma di ieri, lo davamo nella finestra informativa precedente, è di 241 vittime, l'ultimo bilancio ufficiale. La gente chiede di non allontanarsi da casa, vogliono rimanere lì vicino, ha detto poco fa la presidente della Camera Laura Boldrini, che è arrivata al campo dei soccorritori di Arquata del Tronto. Interviene anche l'Europa, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha scritto al premier Matteo Renzi, ha espresso le sue condoglianze e poi si è detto pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per aiutare le autorità e gli italiani in questo momento di dolore e sofferenza. A tra poco ancora per gli aggiornamenti dalla redazione e anche dalla nostra Elisabetta Fiorito. Giovanni. Grazie Marta, quindi insomma microfoni aperti per tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, per quanto sta accadendo nelle zone del terremoto. Marco da Padova, Marco. Sì, buongiorno a tutti, eccoci, grazie per la comunicazione. Niente, una notizia, forse una ragione in più per cui il calcio dovrebbe, anzi deve essere solidale. Segnalo che il sindaco di Amatrice, Pirozzi, allena in Serie D la società Trastevere. Quindi penso che tutto il calcio, non solo quello professionistico, ma anche quello dilettantistico, a maggior ragione della categoria che allena il sindaco Perozzi, debba muoversi in ogni caso, perché insomma è un modo come un altro per essere solidali e dimostrare anche che siamo tutto il nostro mondo, il mondo del calcio deve essere solidale. Tutto sì, qui, lo abbiamo sentito anche prima, sindaco Pirozzi, evocare proprio il gioco di squadra. Leggo un messaggio, 349-238-6666, gli Ultras del Padova, in occasione della trasferta di San Benedetto, consegneranno agli Ultras della San Benedettese, che sono già attivi nell'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto, viveri di prima necessità, che verranno consegnati direttamente nei luoghi colpiti dal sisma. E quindi si invitano i partecipanti alla trasferta o chiunque volesse contribuire a consegnare il materiale all'esterno dello stadio Euganeo di Padova domani tra le 17 alle 21 oppure ancora sabato mattina. Quindi ci facciamo portavoce anche di questa iniziativa. Marco da Milano. Ciao, so che tu ti sei già espresso sul fatto che ognuno dà quello che può dare in aiuto dei terremotati. Poi io voglio essere leggermente polemico, io trovo contrastante leggere sul giornale che la Fondazione Agnelli dona 150.000 euro per i terremotati quando sono società che spendono 95 milioni per un giocatore. L'incasso devoluto anche da parte delle altre società secondo me è sempre a carico di noi tifosi, che sicuramente faremo qualcosa di nostro perché non si può rimanere indifferenti di fronte a queste cose. Lo dico con molta convinzione. Marco, io però credo Marco, di tasca propria. Sì, ma è di tasca propria, perché altrimenti se vale il principio che dici tu, Marco, che per carità rispetto, allora i soldi che ogni singolo cittadino devolve dal proprio stipendio, dal proprio lavoro, non sono suoi, ma vengono dall'azienda che glieli paga. I soldi di un incasso sono linfa vitale per i club, esattamente come i soldi di qualunque ricavo sono linfa vitale per qualunque attività commerciale. È importante che ci sia la volontà di mettersi insieme, di fare sistema e di fare qualcosa di concreto. Poi, ripeto, ognuno lo farà secondo le sue possibilità e la sua sensibilità. Questo vale per le società di calcio, vale per le aziende, vale per i singoli cittadini. Qualcuno chiede cosa faranno i giornalisti. I giornalisti sono cittadini come tutti gli altri, i giornalisti si comporteranno secondo coscienza. Grazie comunque Marco. 800 24 00 24, torniamo subito dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Penso che tante squadre hanno fatto la tournée, allora credo che il motivo non sia questo. Handanovic deve allenarsi, deve giocare, e credo che in questi due mesi sono stati tanti cambiamenti, perché nessuno ricorda che non sono passati ancora due mesi che noi abbiamo cambiato società, abbiamo cambiato allenatore, sono arrivati giocatori nuovi, bisogna avere tempo e credo che noi siamo tutti consapevoli che questa squadra ancora può dare tanto. Tanto le immagini che passano dell'ultima scossa, quella che vi abbiamo raccontato in diretta con la nostra Betta Fiorito da Amatrice, sono drammatiche, magnitudo 4.7, nuovi crolli e soprattutto grande paura e grande disperazione. Giuseppe da Palermo. Giuseppe. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Io volevo intervenire sul discorso della solidarietà, nel senso che è giusto, come pure diceva lei poc'anzi, ognuno contribuisce secondo la propria sensibilità e possibilità. È giusto che il mondo del calcio partecipi in questo, è giusto che ciascun cittadino partecipi, però a me piacerebbe, diciamo, uno Stato che soprattutto conosce il rischio sismico che abbiamo in Italia, in tutto, diciamo, il territorio, e conosce anche quello che non fa per tutelare il rischio sismico, perché io ne parlo anche da ingegnere strutturista. Mi piacerebbe uno Stato che possa avere la capacità economica di affrontare queste emergenze, non chiedendo la solidarietà degli altri. Quello che viene dopo è giusto, è bello, perché ci fa sentire tutti più comunità, però mi piacerebbe uno Stato che prenda 1 miliardo da un bilancio di 1.000 miliardi e dica: questo serve per credo Giuseppe che serva anche di più. Adesso non è questo lo spazio per discutere di questa cosa, hai perfettamente ragione, ma credo che siano anche due discorsi che possono stare insieme, quello della programmazione, della prevenzione, su cui bisogna sempre tenere le luci accese anche quando siamo lontani da queste grandi tragedie, e quello però della solidarietà, che almeno per quanto riguarda il mondo dello sport, che non può fare prevenzione antisismica, è il tema di oggi. Saluto Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao Giovanni. A proposito dei grandi numeri, eravamo in difetto da ieri di spiegare che cosa succede dal 2018 con la nuova Champions League, che ricordiamo oggi alle 18 celebra il sorteggio dei gironi di questa stagione, però tra due anni cambierà. Come? Beh, vedremo esattamente come, perché molti aspetti sono ancora oggetto di trattativa tra l'ECA e la UEFA, però di fatto riporterà, per quanto riguarda l'Italia, 4 squadre ai gironi, il che significa avere la possibilità quindi di schierare di nuovo, insomma, il meglio, si spera, del calcio italiano, e soprattutto attingere a quelle che saranno le risorse aggiuntive che derivano dalla Champions, perché in realtà quella è la sfida che UEFA ed ECA, che è l'associazione dei grandi club guidata da Karl-Heinz Rummenig, stanno affrontando, è proprio quella di trovare le modalità per aumentare, no, il gettito della Champions o della Super Champions. Si è parlato tanto di Superlega, lo ha fatto per esempio la Juventus oltre al Bayern Monaco, proprio perché per esempio per un club come la Juventus paradossalmente avere solo 2 squadre alla fase a gironi in questi anni è stato un grande vantaggio, no? Ricordiamo sempre, per esempio, della finale Juventus-Barcellona, vinta da Barcellona sul campo, ma poi la Juve ha incassato molto di più dello stesso Barcellona, proprio per quel meccanismo del market pool che ormai anche i tifosi stanno imparando. Sì, che gli ha consentito di dividere in due questa grandissima torta. Juve, che se dovesse vincere la Champions quest'anno potrebbe arrivare a 120 milioni di euro, cifra incredibile. Ti volevo chiedere questa considerazione, poi ti saluto. è vero che è un compromesso, è vero che è il modo con cui l'UEFA cede ai club senza arrivare alla Superlega, ho però l'impressione che sia anche un modo per salvare i campionati nazionali. Dire ad esempio che 4 club andranno sempre dentro i gironi significa consentire a tutti investimenti, cosa che ad esempio l'esempio italiano non è capitato in questi anni. Sì, significa dare certezza di investimenti e probabilmente anche di programmazione, nel senso che se uno allestisce una squadra con un organico di livello può sperare grosso modo, insomma, di andare magari 3 anni su 5 in Champions e quindi di accedere a quelle risorse. Ripeto, il vero tema è capire quanto si riuscirà a aumentare queste risorse. Attualmente tra Champions e Europa League si viaggia sui 2 miliardi all'anno, ma ricordiamo per esempio che la NFL, che sicuramente ha un pubblico meno vasto, incassa ogni anno 7 miliardi di dollari, e questa è la grande sfida, e soprattutto consentire poi ai grandi club di competere tra di loro, in particolare ovviamente questo riguarda la Juventus, ma i club di fascia media, quelli storici magari in difficoltà come Inter e Milan, di poter essere stabilmente su un palcoscenico che gli possa garantire introiti per ritornare a essere quelli che erano un tempo. Aumentare l'appeal di un torneo significa garantire a tutti, la maggior parte dei club, la possibilità di vincerlo, questi gli sport americani ce la insegnano, ed è esattamente la direzione in cui la UEFA sta cercando di andare, sì, per salvare anche i campionati nazionali, anche perché il principio, insomma, è sempre meglio avere, sì, che è sempre meglio avere l'Inter o il Milan in Champions piuttosto che l'Utocore, piuttosto che delle comprimarie, certamente. Grazie Marco. Ciao, grazie Marco Belinazzo, c'è qui Marta Cagnola per gli ultimi aggiornamenti. Sì Giovanni, ma più che altro abbiamo ancora in diretta la nostra Elisabetta Fiorito, che ci parlava poco fa di una nuova fortissima scossa. Elisabetta, qual è la situazione? Ecco, la situazione è che questa nuova forte scossa abbia fatto sì che dentro il palazzetto dello sport, che dove vengono messe allestite tutti i sacchi a peli, tutte quante le acque, eccetera, ci sia stato poi molti pacchi che sono caduti, e comunque la protezione civile ci ha detto che adesso dovranno verificare la agibilità anche del palazzetto, che ricordiamo è un punto nevralgico per i soccorsi, perché qui vengono messi tutti i pacchi da mangiare, ma anche i sacchi a pelo da distribuire poi alla popolazione civile. Quindi evidentemente il fatto che si siano mossi tutte queste cose, la scossa, ci confermano che è stata molto forte. Ora bisogna capire l'intensità esatta, ma questo si saprà tra poco. Immagino, insomma, la situazione confusa. Qual è lo stato d'animo che hai raccolto in questi momenti? Perché sono momenti molto difficili, non ci si abitua mai alle scosse che si ripetono. No, perché le scosse vanno avanti sempre, allora uno ci fa quasi l'abitudine, è brutto dirlo Marta, ma è così. Stamattina noi tra giornalisti o magari con la protezione civile ci siamo guardati e abbiamo detto continua a tremare. Ho appena finito di dire questa cosa, perché la terra continua a tremare sempre, inesorabilmente, magari è piccolissima la scossa, però ogni tanto si sente. E invece poi quando c'è stata questa qui, che ti senti che si sta muovendo, che ti stai muovendo anche tu, e questa è la sensazione terribile, e allora capisci che è un pochino più forte di quelle lì che senti abitualmente durante il corso di tutta la giornata. In questo momento l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rende noto la magnitudo della scossa 4,3. La scossa è avvenuta alle 14:36 proprio nel margine meridionale della faglia, all'origine del terremoto principale di ieri. Grazie a Elisabetta Fiorito, torneremo a collegarci con te nello speciale che seguirà questo appuntamento speciale, ovviamente con tutti i convocati. A te Giovanni. Grazie Marta, abbiamo 2 minuti. Stefano da Roma, Stefano. Buon pomeriggio. Io da tifoso laziale penso che la mia squadra dovrebbe essere la prima a dare un segnale, diciamo, concreto e possibilmente sostanzioso, anche perché nella zona del Retino ci sono molti tifosi laziali, e una spolveratina, diciamo, all'immagine del nostro presidente non farebbe male né a lui né alla squadra. Sì, ma magari pensavo anche non per spolverare l'immagine, ad esempio, Stefano. Se fossero, sì, possibile. Sì, ma anche giocata a Roma a patto di riempirlo quello stadio, perché poi il resto dovete farlo voi tifosi della Lazio, anche senza andare a Rieti, che insomma è una zona in questo momento difficoltosa. Facciamolo all'Olimpico, fate quello che volete, ma non per questione di immagine. Fatelo perché ci tenete, perché lo sentite. Sì. È irripetibile, sottolineo irripetibile, speriamo tutti. Ecco, appunto. Insomma, perdere questa occasione penso che sia veramente uno sbaglio. Ecco. Mm. Grazie Stefano. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. La programmazione di Radio 24 prosegue, ovviamente ancora tenendo aperte tutte le finestre informative per gli aggiornamenti dalle zone colpite dal terremoto nel centro Italia, e lo farà, come accade da ieri mattina, e andando avanti ancora fino a questa sera. Tutti convocati, torna invece domani, dopo il GR delle 14.